sì. Antonio sempre. Tu è già. Ah, tu cuno, sì, ti intendi già, accento, tu cuno. Ha pagato, là. Comunque, io oggi ho mangiato poco. E di notte mi sono abbuffato, sono stato male, non ho dormito tutta la notte. Quindi la parte è che assaggia una cosa, assaggia un'altra, quando c'è una volta c'è sempre troppa. E quindi poi stai male. Il nostro fisico non è più abituato a mangiare tante cose, quindi... Prima da ragazzo si poteva fare, ma devo stare un po' attento. Mi sentivo questa pancia gonfia, mamma mia, non potevo stare. E c'era un po' di tutto, c'erano tanti pasti vari, polpi con le patate, e poi pasta al forno, porcetto, gamberoni e via dicendo. Questa roba che fa, ti fa riempire lo stomaco. No, no, 70 anni fa era un virus, quindi non lo so. E pesce non ne mangiavano. Era così, faccio compreso. Avanti Luca, buonasera. Luca non entra, ciao fra avanti. No, solo per darti gli auguri a te e a tutti gli altri. Buon Natale a tutti, alla prossima sono ascolto. Kappa kappa. Dai, buona continuazione. Non si mangia niente. No, lui era già un franco. Luca Manicco mi è entrato, ha fatto cucù e poi ce l'ha andato. No, aspetta, già, là, vado a farmi una doccetta che mi devo provare i prodotti per la barba, là, il balsamo, questa cosa qua. L'ho ricevuto come regalo, lo devo provare. Te la mordisce, sì. Ha giocato a pinto. E tu, Luca, come sei messo a pancia? Come sei messo, eh? A pancia, te c'hai, sì. Ma io non c'è niente, a pranzo un po' di più, dai. Io non te abbiamo fatto, diciamo, non abbiamo il gara di cucinaggia, un coso di, una sfoglia, no? Ci ha messo pomodoro, prosciutto, patate, poi, ma se non mi ricordo, ci ha messo la mozzarella, queste cose così. Ho mangiato quello, un po' di insalata, frutta e basta. Ci abbiamo fatto uno spumante e a pranzo un pezzo d'agnello, un paio di gamberi, un pezzo di pasta al forno, cose così. Una bomba, dai. No, invece ho mangiato forte ieri notte, sono stato male tutta la notte, perché mamma mia. Vabbè, dai. Oggi già ho mangiato poco a pranzo, se mi hanno mangiato due gamberoni così e mi sono fatto fare la minestrina perché non ce la facevo. E a vomiti ieri? Mal di pancia forte e non riuscivo ad andare in corpo. Cazzo, brutto così, brutto. Ma arrivo a su, così. A per il mese, ma arrivo in su. Sono tutto ok, dai. Tutto ok, buona minestrina a pranzo e via. I cristallini, quando facete questa roba qua, cristallini già. No, ma già io sono un orologio, però secondo me ti ho mangiato troppa roba e se bloccata. Quando inizio a mangiare io, mandorle, perché faccio mangiarne due, ne mangio, ne mangio, poi luci e queste cose qua mi bloccano, però già, poi io sono un orologio, dai, arrivo subito, a dopo, ciao, riprendi con Giuseppe. Oh, i gamberi a 12 li ho pagati io, a 12 euro al chilo, anche se ne ho preso due scatole, ma li ho pagati a 12, ciao. Io li ho presi vicino a casa dove faccio la spesa, l'ho pagati così, poi che fosse in offerta, questo non te lo so dire, ma congelato, le uno sì, come l'ho preso, ma le riusi di me, no, io li ho presi, li ho fatti padella, anche prezzemolo, peperoncino, vino bianco, pomodorini, e tira gamba. Cose di che costano, non è che la mangio ogni giorno. Piccola mandorla lì, quindi non prende più gusto a nulla, l'andorla era un piglia burbura fuori di Natale e cose. Io adesso ce l'ho una metà di agnello mi è rimasta, poi il porcetto l'ho regalato a tutta mia figlia, dopo la tempo a casa che se no si mangia d'ora che su buchito, mi torna di basta. E infatti, ma prima si accontentava, adesso che dopo lì, a fin dei conti io preferisco mangiare un pezzo di formaggio, due fette di salsiccia piuttosto che mangiare queste cose che ti appesantiscono lo stomaco e bubati. Ah, io già controllo. E così, ho preso i mandarini, ma li ho presi di mula vera e sono sani. La roba ne arriva quasi tutta dalla parte dell'Oristanese, dove vado io. Le arance mi pare che erano di Minis. Qui ho preso la, vabbè, la cosa non lo so, quella lì è la Dolet, l'Alas è la Dolet, non è la Sarda. Ciao, buona tarda a tutti. Ciao, bravo, ma ci sono le pesche buone di seno, di sorso, quelle piccole ma dolci dolci, buonissime, quando è ferito. Ma l'altra va dura tutto l'anno, prima non si vedevano le arance tutto l'anno, tu mi dirai, arrivavano dall'Africa, arrivavano dalla Spagna, però ce l'hai tutto l'anno e ti devi accontentare, se ti piace l'arancio come me, io mi accontento, non saranno buoni buoni come gli altri, ma già si possono mangiare. Quello sì, ma se non c'è roba, poi c'è anche un'altra cosa, che la roba salda la paghi più salata dell'altra, c'è poco da fare, si dovrebbero adeguare i prezzi. Avanti Claudio, buonasera. Ehi, buonasera, buonasera. Ascolto basso Antonio Giuseppe, non so se te sta parlando la sorso, vabbè. Ciao Antonio Giuseppe, buonasera, ben ascoltato, non te lo posso dire perché stai arrivando molto molto basso. Ehi, Luis è giovaniato, guardate buono. No, non lo so, ti ascolto un po' basso, devo inserire il preamplificatore d'antenna, non lo so perché, vabbè. Ok. Tu mi ascolti bene Gianni, sì, è un problema mio. Prova a vedere. Penso che mi ascolti bene, anche un bel segnale sicuramente, quanto siamo qua. Voltiamo ancora più su. Prima erano 25, quando l'avevo mai detto non lo guardavo. Ehi, vabbè. Non è un problema, giusto per capire, dai. Sto facendo delle prove. Ehi, no, vabbè, Antonio Giuseppe, ma va bene, ma per me sosso di vicino, dai. Ok, dai, io vi saluto, la salutata solo per dare i saluti, fare gli auguri a tutti quanti. Sono impegnato, c'è gente a casa, dai. Già mi è capito. Ciao, ci sentiamo. Ciao, già, ciao, infatti ho trovato strano che Gianni sia in radio a quest'ora. Va bene, dai, ci sentiamo dopo. No, anch'io sono entrato solo così per salutarvi, per farvi gli auguri. Ci sentiamo dopo, ragazzi, dai. Che anch'io sto facendo cose, c'ho gente. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ci sentiamo magari più tardi, dai. Cosa, tu? Non ho capito, cosa hai detto, tu? A me? No, sto facendo cose, c'ho gente a casa, Anto, già ci sentiamo dopo al limite. Ciao, ciao Anto, ciao. Ehi, così è. Già va bene. Vediamo un po', siamo mettere questo cazzo di microfono. 1, 2, 3, 4, 5, prova radio. 1, 2, 3, prova. Ehi, già va entrare. Prova, 1, 2, 3, 4, 5, prova radio, prova. Chi è? Roberto, chi è voi? Ah, sono col baracchino, non ti ho riconosciuto. Che baracchino è? Perché bene sto scendendo. Oh, un bel forte il segnale. Esatto, 50 watt. La radio è bella, che microfono c'hai? Sempre MB più 5, ognuno c'ha il suo MB più 5. Ma tu non c'avevi anche un partner qua, che fine ha fatto? La stanza teatrale l'ho fatto, cazzo. Trovato a Gavino di Porto Torres, poi non so se se l'ha venduto quel po'. Non è più perché di Turner? No, assolutamente no, ma già vanno bene questi. Sì, no, già lo so, ma quello col Turner c'è una bomba. C'è la chiedere a Capri se ne ha qualcuno in più, magari qualche scambio. No, l'ho provato il Turner, per me c'ha troppi acuti, roba e già spingo io, figura di burro Turner, vivo. Questo più 4 più 5? Sono tutti MB più 5, tutti con i toni. I toni ce li ho tutti a 2, la mia misura è quella. E io? C'è qualcuno la fotografia qua? No, non c'è nessuno, stavo facendo cose e mi sono un po' allontanato. E beh, com'è andata? Non sei uscito, sei rimasto in casa? Vuoi uscire, Robè? Non si può uscire, Robè, cioè si può uscire, già posso uscire. Ma no, non da nessuna parte, sto bene a casa. E vabbè, che poi c'è tua moglie che deve recuperare ancora, no, però sono andati vicino da mio babbo, c'è andato il mio cognato, mio fratello, le sorelle e tutto là, già ci siamo, non sono andato adesso, ero mangiato Ghirigani. Beh, no, ma anche noi, grazie a Dio, io avevo un gamberone, oggi porcetto, adesso c'ho un pazzo d'agnello, c'ho cinghiale ancora, e c'è da mangiare. Da mangiare non manca, no? Che sono un sacco di problemi, speriamo che si riprenda mia moglie. La radio è bella, quindi Robè, va bene. È un bel forte, è bella, bella potente. Vabbè, saturazione non ne senti, vabbè, 50 watt sta dando, tondi, tondi, tondi. Ehi, 55, quasi 60 watt. Oh, già sta spingendo, va più che bene. Ok, no, non è che sto saturando io invece, quanto una aspetta, portante muta? Non sto saturando io. No, assolutamente, quello grande sì. E io, devo fare naturalmente, quando ho tempo, adesso non la giugana, mi metto il coso e mi faccio le regolazioni con l'equalizzatore, vedo di farlo uscire nel migliore dei modi. Io, per quello, quando vuoi, facciamo due passaggini per i cacchi nostri in qualche canale e vedrai che già funziona bene. Io devo tutto memorizzare adesso qua, non la giugana. La memorizzazione dovrebbe essere uguale a 44 come logica di funzionamento, perché più o meno le funzioni le vedo che sono uguali, però ordinare i canali, 100 canali questo, com'è il corso? Lo sai che mi sembra di sì, sì, mi sembra di sì, o mi sembra qualcosa in meno, non mi ricordo, vabbè, sono passati tanti anni quella radio, comunque già ne ha di memoria, beh. Per memorizzarti 45-50 canali già ce l'ha. Sì, vabbè, tanto siamo sempre su canale 10, ma se non ne metti 40, no, non c'è di più. Il coso invece ne ha 20, 24 canali, 140, 23 o 24 canali. No, c'ha 30 canali. Ega, comunque ho sentito in banda laterale c'ha quel cacchio di regolazione per ascoltare, quei filtri, veramente ti posso dire, io l'ho provato, veramente ti corregge in un modo spettacolare. Quello stringe e allarga la banda, ma non lo toccare da come l'ho messo io, Roberto. Più o meno va lì, capito? Sì, sì, no, ma ho fatto le prove per vedere cosa cambiava, perché c'è alti e bassi per la regolazione di cosa, allarga la stringe, ma posso dire, ho fatto confronto con l'altro, bella la modulazione, è bella, perché li attaccati tutti e due allo stesso altoparlante, all'SP940, tutti e due gli apparati, è comodo, ho fatto la differenza, ma in ricezione come modulazione è migliore questo qua. Non parliamo di sensibilità, sto parlando come tonalità di apparecchio, te la va migliore. Sì, c'ha dei belle regolazioni, già va bene. Già va bene, già va bene, non c'è problema. Comunque più o meno la cosa, come si dice, la regolazione, quella che ti ho fatto io, più o meno è lì, dai, più o meno siamo lì, non c'è problema. Sì. Buonasera e auguri. Sì, buonasera e auguri Claudio e anche Roberto. Ah, scusa, già non avevo riconosciuto, auguri anche a te. Avanti. Sì, sì, pensavo riprendesse Claudio. Ora riprendi Claudio. Ciao Gianfranco, un secondo che sto ritirando le cuffie. Ciao, tanti auguri, buon Natale anche a te. OK, ricambiato. Rimango un attimino in ascolto, questo tanto per cambiare, facendo una cosa. E io non c'è problema, dai. Ora vediamo qua. Oh, i picchi sono belli pieni questo telegramma. Cioè, puoi vedere la modulazione com'è questa, non parliamo la qualità, guardandola sullo spettro. Prova un po', fischia, fai rumore. Ora. Sembrerebbe tutto tranquillo. Su 500 a un lato, 500 all'altro, sono un mega. Ok, no, volevo fare, scusate, è una cosa nuova, sto facendo delle regolate, poi, e l'audio come lo senti? L'audio? quello non ce l'ho adesso, non me lo ricordo, su questo il coso, il modulatore, come si importa per vedere la larghezza, come la funziona. Comunque mi sembra regolare, senza particolari particolari saturazioni, niente, va bene, dai. Mentre l'ascolto orecchio, come ascolti? Con l'apparato interno mi sta ascoltando quello dell'apparato? Apparato interno, ma professionale, con sistemi di fibrazione, cuscinetti, trick e track e trick e troc, col papillato palante della radio. Trick e ballacche, no, lo dico, mi ascolti bene comunque. Sì, ti posso anche registrare dalla radio, ma siccome c'ha 3000 comandi, non mi ricordo poi come si invia, il computer ce l'ho impegnato perché sto installando un commander. Militare, la sto, penso di darla, forse penso di darla, ma sono ancora molto sicuro. Ma che radio è, di quelle spalleggiabili o radio da tavolo? Beh, in teoria si può mettere anche da tavolo, però la suonatura è quella spalleggiabile HF, da 0 a 30, potenza 25 watt con la batteria, c'è la batteria da sostituire, ma si può, oramai con queste al litio si possono fare miracoli, perché la sua originale era mica il cadmio, però avendo l'età che ha, sì. Non si può aprire la radio perché è guarnizionata come tutte le radio professionali, quindi sono là e poi si deve cercare la gomma per le guarnizioni, capito? Perché è anche subacquea. Oh Gianfra, ma qual è quella che mi avevi fatto sentire una volta dalla spiaggia? Eia! quella guarda, è da fotografare perché è una radio proprio militare, è bellissima, è bella e mi fate una cazzata darla, loro sempre la scusa a queste cose e poi non, a volte non vengono neanche apprezzate. E come si dice? Sto facendo perché mo corre spazio, perché devo prendere e finire la conversione di questa stazione. E quindi a gennaio o febbraio penso che arriverà l'altra. E quindi niente, però è un peccato, è un delitto di darla. Ascolta, guarda, telefonami, mi devi dire quanto ne vuoi realizzare che mi metto in movimento. Ma vabbè, non so neanche qua, guarda, perché nonostante non c'ero neanche pensato al prezzo, perché tanto anche se dici poco non la vogliono perché pensano che siano guasta, e invece la radio è a dir poco perfetta, figurati che c'ha dentro messa tipo dado, c'è un dado, no? Che contiene come si chiama, il quarto di stabilità termica, che è una cosa micidiale veramente, e non c'ha canali, ma c'ha i soliti cosi militari, manopoline che si girano, tu metti la frequenza e lei va, 25 watt di potenza in AM, riducibile ovviamente, e poi in banda laterale non so, c'ha solo la banda laterale USB, perché è prevista per quell'uso, USB, AM, CV, e volendo c'è un'altra presa per i dati naturalmente. Beh, mi fa sapere quanto ne voglio realizzare, ti ho detto chiamami e poi metto in moto. Capito? Va bene, avanti Robert. Ehi, magari manda la foto a casa e poi me la manda, me la fa vedere la camera, ma c'ha frequenzimetro digitale, strumenti, c'ha qualcosa già fra? No, è una radio degli anni 70-80, in relazione alle truppe, all'esercito inglese. E la puoi vedere su quel sito, radio su Plus, Classman 320 dovrebbe essere. Adesso c'ho il computer impegnato. Comunque vai su Radio Surplus e guarda 320. E con formazione tipo tartaruga, completo di spalliera, di cinghia, di microtelefono. Ehi, ok. Va bene. Vediamo un attimino di bianco se c'è qualcuno che vuole entrare su questo canale. Avanti, se no riprendi tu qua. Pensavo che con questo, diciamo, questo fatto che siamo tutti chiusi in casa, come si chiama, chiuso dentro in clausura, c'era qualcuno invece oggi. Stamattina mi ha sentito di sfuggita prima di uscire a cosa, a Franco del California e a cosa. Anche tu mi pare che c'eri, Claudio, un attimino, e Antonio Bombolo. Sì, sono entrato un attimino a fare due chiacchiere e poi sono andato via, non c'è problema. Non mi manda foto Gianfranco, non mi ha di WhatsApp, non va nulla, no. Vabbè, ma io per vederla già non c'è problema. Ci c'è un appuntamento lì, sotto il ponte, già me la fa vedere. La faccio io la foto, non c'è problema. Vabbè, sentiamoci Gianfranco, via bassa e mi dici cosa ne vuoi realizzare e io chiedo. Come abbiamo fatto per l'altra, vediamo di farla fuori. Di foto ne ha tante, è una radio famosa. Adesso sto guardando su eBay. PRC 320 Manpack HF LSB, no, USB, la mia è USB, perché ce ne facciamo due versioni, ma quella importante è quella USB perché è proprio senza toccare. Attaccata con quei dadi, quelli esagonali, no? Ci vogliono le chiavi esagonali, ma non è mai stata aperta perché c'è anche i cosi militari in cui è scritto, in cui ci sono i collaudi dei vari anni, perlomeno sia per l'anello era il magazzino, quindi è così, così. La puoi vedere come ti pare, anche operativa, ci sono parecchi filmati su YouTube, ti rendi conto di cosa stiamo parlando? Vabbè, manda la sigla a Roberto, magari la guarda lui, io non lo so. Va bene, avanti Roberto, riprendi. Vabbè, che argomenti ci abbiamo oggi, troviamo qualcosa di, per discutere. No, le radio militari sono belle, naturalmente ci vuole essere una persona appassionata, però a me piacciono almeno come robustezza, come costruzione, affidabilità, nel senso sono fatte in modo impeccabile. Hai detto bene, cioè qua più che in altro ci vuole una persona, perché se non capisce un tubo magari la rovina, c'è cioè, gente che capisce solo baracchini e basta, ma questa è un'altra roba. Questa è anche, figurati, è anche esposta a Royal Signal Museum, perché era una radio dei corsi speciali, no? I SAS, famosissimi, i corrispondenti dei nostri guastatori, Comello Moschin, eccetera. Già lo so, ma anche quella Barrett, quella lì, vabbè, adesso quel faccia qualche problemino, è una bella radio quella, robusta, fatta bene. Sono radio fatte per prendere i colpi, per essere buttate, bagnate in tempesta, chi più ne ha. Questa però c'è anche l'accordatore, manuale ma efficientissimo, e c'ha la scheda, no, stampata. Secondo dovevi andare, che ne so, in 20 metri, in 80 metri, eccetera, con la sua antenna, c'è un'antenna ingegnosissima fatta in vetroresina e con lo spago. Tu tiri lo spago e l'antenna si è posizionata in basso, si unisce velocemente. La innesti nel suo apposito alloggiamento e è pronta a trasmettere. È lunga, di quelle che si vedono i film. Microtelefono e via. Peccato la batteria, ma molti l'hanno modificata, anch'io tra l'altro, con due batterie al piombo, la fa un po' più pesante, ma tanto già bella pesante già di se stessa. E solo che adesso le batterie era circa un anno che non le usavo e se sono e sono andate, no? Sono quelle di Pontifuto, non so se c'è presente, che stanno esattamente dentro la scatola batteria. Oppure l'alimenti, l'alimentazione è a 24 volt, se non ricordo male, sì, 24 volt. Sì, ma adesso con quel se prendi le batterie, infatti io ho un misuratore del campo con un analizzatore di spettro, lo stesso problema con le batterie che stiamo sostituendo con un amico, stiamo mettendo quelle a litio, lì c'è un'autonomia enorme, per cui le cariche che puoi effettuare sono molto, ma molto superiori a quelle a nickel cadmio, perché quelle tra l'altro sono anche, ma non sono neanche a nickel cadmio, col tempo tendono a consumarsi più di quel ciclo di carica, non fa, le stiamo mettendo a litio, prendiamo quelli degli abitatori che costano la fesseria dalla Lido, sono pezzi da 6 volt, sono gruppi da 6 volt, li unisci e fai 12 volt e come amperaggio ne hanno molto di più di questa cosa, il piombo. Cos'è? Ma stai usando la 12? Ehi, perché? Provo a mettere 60 con quella radio, voglio vedere una cosa, c'è un bel di bassi con questa, metti 60. Aspettate, no, vabbè, qua è tutto da equalizzare. Vabbè, fregati, non mettimi 60, voglio vedere se è uguale al 40. Questo è 60. Prova, parla. 1, 2, 3, prova canale 10, 27, 0, 7, 5, la frequenza, prova radio. Ma manca paragone, manca paragone. Ascolta, a quanto ce l'hai il Mickey Gain? Guarda dove c'è scritto Mickey Gain. A 1. Mettilo a 2 a vedere. 1, 2, 3, prova radio, ti presente, sono circa 50 cm dal microfono, e questo è il canale 10, e la frequenza è 27.075. Sì, ma chi non vuole di addesimetro, 30 cm, avvicinati. Vabbè, io mi metto una sedia girevole, sono una sedia a dondolo, diciamo, girevole. Adesso mi sono un po' avvicinato, guarda un po' come sta andando. Bene, ascolta, il processore e il compressore è sempre come l'abbiamo messo noi, giusto? Allora, il processore quanto è? 6,5, quasi 7, dai. E l'altro sono tutti e due uguali, uno a 7 e l'altro a 8, dai. Sì, me ne ricordo, 7 e 8. Metti la 3 il Mickey Gain. Adesso questo è il Mickey Gain in posizione 3, sempre canale 10, 27,075. Qua sì, uguale al 4,40 così. Non ho capito perché non usi l'MC60. Così stai uscendo. Preciso, identico al 4,40. Preciso, identico. Molto più bella dell'altra. Sta andando bene? No, se no la prova mi intervengo un attimo, attacco e mi dici la differenza tra il 44 e questo. Guarda, non voglio anche sentire il 44 perché io c'ho l'orecchio. È uguale, preciso identico al 44. Né più e né meno. Anzi, ti dirò, molto più completa la modulazione. Vero Gianfra? Ma guarda, onestamente ero distratto. Perché stavo guardando questa radio, i filmati che ci sono su. Vabbè, però io già c'ho l'orecchio. Vabbè, se usi questo, usi il 44, per me non cambia assolutamente niente. Puoi anche aumentare ancora il Mickey Gain, figurati, per essere proprio bella corposa come il 440, però è molto bella, molto più bella della 12. Mettilo da parte la 12, usa il 60. Vabbè, la 12 non ho regolato, là, è tutto così messo a meno a futto, o l'hai appentato, perché quello è troppo sensibile, se lo tocchi un peluzzino è troppo delicato, devi stare molto attento. Quando c'è tempo mi faccio anche le regolazioni in base a questo, mi prendo l'altra apparecchio ricevitore, mi faccio le prove regolando simile, come anche come intensità di microfono, oltre che di equalizzazione. È bella, vabbè, usa il 60, levete a me. Molto corposa, molto bella, chiara, abbastanza forte, non è aburottosa, ma molto bene. Hai notato già fra? No, stavo guardando questo qua, che c'ha tutti anche gli accessori, c'è anche la bicicletta per quella radio, quella che ti siedi, pedali e da corrente. Aspetta, controlla un attimo, cazzo. Stai attento a Roberto, la modulazione di Roberto, se ti piace, se è bella. Vai Roberto. Che abbiamo cambiato microfono, Gianfra. Prima mi stavi ascoltando con la Dunis, il 908, e questo è il 60. Per me va bene lo stesso. Va bene, comprensibilissima. Sì, va bene, dai, l'intensità microfonica va bene, Cla, non è bassa. No, prova a metterla a 5 il Mickey Gain a vedere se cambia qualcosa. Non sono neanche a 4 il Mickey Gain, Cla. Mettilo a 4, pieno. 4 abbondante, prova a vedere. Perché non mi ricordo se ne è a cifra, prova. 1, 2, 3, prova radio, 27.075. Questa è la prova radio sul canale 10. Sì, lasciala così, lascia. Io guardo al 44, vabbè. Non cambia niente, bella corposa, bella amplificata e non è aburottosa, bella presente. piace più della Rovici. La Rovici ha troppi toni bassi. Nel frattempo che poi si fanno le relazioni, usa questa, è più bella. Ok, vai Giaffra. Sì, ti volevo dire che dal punto di vista dello spettro sei molto stretto, la radio ha un'intensità più che decente, e rispetto ad esempio a quella di Claudio è all'incirca il doppio della tua, ecco, dal punto di vista, diciamo, della pancia. Diciamo così, è molto più grassa la modulazione. La tua è snella, potente, quindi non fa splattere, farò il povero. Questa è una cosa nuova, un apparecchio nuovo, diciamo, diverso dal solito che utilizzo. Anche qua poi magari vorranno fatti delle allineamenti, delle regolazioni. L'importante è che non disturbo, che non creo troppo problemi, perché l'altra che ho è stata allineata, era tutto a posto. Questo l'hanno venduto come usato, non ho certezza che funzioni perfettamente a livello di disturbi, ma penso di sì, perché è un apparato un pochettino più evoluto del solito. E comunque mi ci gioco quello di voi, che ci sarà qualcuno che ti dice che ci basso, guarda, è quasi certo, mentre invece ci bene, ecco. Poi se te l'ha detto Claudio. No, nessuno lo può dire il contrario, no, ma non perché lo dica io, è perché così è la realtà, sto facendo benissimo, la radio è bella forte, ripeto, non è burottosa, e va bene, capito? Io già ho trovato il problema di quell'elettrico, di quell'innesco, adesso sto usando la stessa radio con lo stesso microfono. Una stronzata. Deve essere spostando, facendo, tirando, modificando, balle e poi va. Perché ancora non ho finito di mettere a posto i vintage. C'era il filo all'interno però, non dal connettore della radio. Si stava staccando ed era rimasto un filino proprio di saldatura, un filino attaccato, e gli altri toccavano al circuito stampato, e per quello mi andava in coso, capito? L'ho aperto, gli ho detto, boh, ma cos'è, cosa non è, e alla fine ho trovato il problema, e adesso sto andando con lo stesso microfono, la stessa radio. Oh, bianco un attimino, scusa. Se te l'ho detto, il 90% di quelle cose è dovuto proprio a questi cavi che col tempo fanno questi scherzi, o peggio ancora le saldature fredde. Sì. Claudio, fammi un bel urlo. Un urlo, proprio un vero urlo, un'ola proprio appiccicata al microfono. Ehi Gianfra, questi sono vintage, io. Anche se vintage c'ha la radio molto larga, ripeto grassa, no? Come forma d'onda, però non c'è niente al di fuori, capito? È proprio, è pulita dal punto di vista di non rompere le scatole, è solo grassa. Oh, ma anche tu forse hai mangiato troppo. Ehi, a me segnali come però, 30, 40, quant'è? Ma tu mi puoi mettere sempre in difficoltà, lo sai che sono mezzo CB, perché qua c'è una linea rossa, dunque come intera. Allora, no, ho sbagliato strada, aspetta, non ti muovere. Prova adesso! Guarda, a vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vedo un po' quanto è il segnale. Allora, dovrebbe essere 9,38, per essere esatti, 9,38, non arrivi a 9,40, e stranamente non c'ha una moto picco, capito? È ferma, nonostante la potenza che ha, la radio è ferma, quindi non c'è né picco negativo e né picco positivo. Guarda, adesso che ho abbassato la potenza, ho messo la potenza a 2 watt e mezzo. Esattamente, 9 più 20 sul parlato, 9 e 18 quando finisce la voce. Cazzo, picchia, picchia, va bene, contentissimo, dai, ho risolto anche questo problema. Ti questi cavetti, cavettieri di merda, per carità. Sì, se vedi quanti cavi c'ho io, scappi via correndo urlando. Guarda, mi è arrivato l'altra settimana l'altro commutatore professionale della Delta, perché quello che c'era era solo a 3 per l'UHF e VHF Company. E adesso ne ho 2, per un totale di 8 antenne. L'altro da 2 antenne l'ho spostato giù, quindi sono 4 e 4, 8, 9, 10, per la gestione delle 10 antenne VHF e VHF solo. Poi nella casa, sul coso, sull'altro che c'ho, che però non è della coso lì, commutatore, come si chiama, di un'altra marca, ce ne sono 3, 3, 6, 3, 9, 9 antenne HF, gestisce. Ho rimesso la potenza come era, molto bene, tanto la radio non cambia, e già fra, oddio a me, ne avevo antenne sul tetto io, però ho fatto lavoro unica calata e commutatore sopra, perché altrimenti era un casino, troppi cavi di discesa, quindi ne ho una sola, praticamente 2 cavi entrano nella finestra, quella del dipolo e quella davanti, ma basta, il resto ho tolto tutto, no? Assolutamente, se no il dipolo doveva essere un sacco di cavi, capito? 5 bande, però è collegato su. Va bene che va bene, ottimo per la truppa, si aumenta quindi da quasi 9 più 20 a quasi 9 più 40, poi alla grande. Sono rientrato io. E comunque anch'io ti posso confermare, Clark, che esiste il problema, te l'ho sempre detto, il problema di questi maledetti PL che da un po' di tempo a questa parte si frantumano, sono... Mi è capitato anche con quelli buoni, con gli antenna, ho preso quelli professionali, quelli di nuovo tipo, no? che si avvitano con la chiave inglese addirittura. Vado a guardarli tutti messi male, credo che costi 6-7 euro uno, una cosa pazzesca, tutti messi male all'aperto, sono uno schifo. Buonasera. Allora, mi sentite? Sì. Ciao Luca, ben sentito, siamo io, Claudio e Gianfranco, vai Cla. Ciao Luca, mi si ascoltano bene? Capanza, benissimo Cla, forte e chiaro, ciao a tutti, auguri. Ciao, auguri anche a te, buonasera, ben ascoltato, stavo mettendo a posto qua. Adesso va tutto bene, capo di Rosmetro. Avanti Gianfranco. Ciao Luca, ben ascoltato e auguri ricambiati a te e famiglia. Avanti Roberto. Sì Luca, tanti auguri anche a te e a tutti i tuoi cari in famiglia. Ok, vai Luca. Sì, allora, ciao Roberto, ciao Gianfranco, ciao Claudio. Là. Vediamo un po' se Bombolino ci sei. Bombolino non c'è, faccio le bomboniere. Sì, sarà ancora smaltendo chi sarà rimane, capito? No, vabbè, io ieri niente, no, a pranzo, diciamo, ho mangiato, là, ieri non avevo manco gana di, non avevo manco voglia di preparare, là, come ti ho detto prima, a pranzo abbiamo mangiato, stanotte lo stesso, quello che è mangiato a pranzo, c'è l'agnello, poi c'è la pasta al forno, e poi, boh, vediamo, qualcos'altro c'è, salata, frutta, altre che ballacche. Ehi vabbè, tanto mio. Ancora domani, di festa, poi ci ritorna alla normalità. Avanti Roberto. Domani e dopodomani, anche domenica, Cla. Domenica è domenica, è normale, domani è Santo Stefano, quindi. Va bene così. Poi domenica è normale. Giornata normalissima. Io lunedì un paio di giorni e lunedì si riprende a lavorare. Vabbè, ci vuole un po' di riposo, anche se ti fai una buffata in questi giorni che ne basta la metà per un paio di settimane. Ehi vabbè, pazienza, poi ci rimettiamo a regime. Avanti Gianfranco. Sì, ma io per sicurezza stanotte non ceno, al massimo un biscottino e basta, perché ho mangiato troppo a pranzo e poi a digerire, poi la notte è stato tutto nel letto, che non riesce neanche a dormire. Vabbè. no, volevo fare una domanda a Luca. Luca, te ne serve strumentazione? Credo che tu faccia dei piccoli lavoretti, no? Luca. Ehi, a Luca mi ha dato baci. Luca, ogni tanto si allontana, infatti si chiama manicomio, perché non si capisce mai dov'è. Avanti, dov'è. Ehi, comunque cambiando discorso, oggi ho fatto il primo mirto qua. Tutti i biglietti miei in giro a casa, eccetera, eccetera. Appena non so già, c'è troppo buono, ma non me l'ho già immaginato. L'altro è uscito buono, qua. Non me l'aspettavo, questa è la prima volta che lo faccio. Porta una bottiglia all'officina, l'assaggiamo. È un bel culo come però, pizzica già un bel. Ho fatto le dosi giuste, ho detto facciamo la prova, siccome mi hanno detto due dosi, l'ho fatto la dose un po' più leggerina, ma già si intende la musica, te lo faccio assaggiare. Sì, poi io proviamo a vedere se è buono. Io sto per darti un'idea, capito? Anche se non è bello, però io sto per assaggiarlo. Avanti Gianfranco. Io invece sono stato mezz'ora a aprire una pseudo bottiglia di spumante, ho aperto, quando ci sono riuscito non è uscito niente, era tutto, come si dice, no, non c'era più gas, infatti ci abbiamo buttato tutto. Ti ha fatto fare robe da una sua collega pasticcera che fa i dolci per il bar, mia figlia l'ha portato stamattina, ha consegnato stamattina un panettone farcito, poi panettone, sembrava più un cheesecake, panettone rotondo da un chilo, al pistacchio, mamma mia, ce n'è ancora metà, stanotte ce lo ciulliamo tutto, ma buono, buono, buono, 20 euro, 20 euro, ma buono, veramente molto, molto buono. Lo so, poi c'è mia figlia è diventata insomma per il pistacchio, se poi fatto in pasticceria, non è di quelli conservati, industriali, è tutto un altro gusto il panettone, c'era con le muriture, la pasticceria a pagoda, lo facevano loro il panettone, ma è come che tu mangi il pesce fresco con pesce congelato, il rapporto era quello, ma buono, buono, poi il panettone diventa un scemo, è buco mi piace. Spumante Gianfranco, ci credi che non ne abbiamo neanche aperto, talmente ne avevamo presi. Io lo volevo aprire, ci ho fatto una figura perché sembrava quasi che non avessi la forza di togliere il tappo, se lo creo non usciva, non c'era spinta da dentro. Adesso sarà per Capodanno, se Dio vuole l'apriamo a Capodanno, dai. Ma ieri il macello non avete sentito di scupi, butti, che sembravamo a Capodanno. Guarda, finisce, stavo per chiamare la polizia, ti dico solo che il cane stava per venire un infarto, sono dei bastardi, dei maledetti, sono dei bastardi, capito? Ma veramente allucinante. Hanno iniziato a mezzanotte, hanno finito la luna qua. Tutti qui erano già fra, tutti qua, tra case popolari, nella piazzetta che c'è, tanto poi si dice che non si poteva uscire. Erano tutti nella piazzetta questi ragazzi, ma bombe, bombe, non bombette, bombe, bombe. C'era il cane disperato, mi stava per morire il cane di infarto ieri notte. Credimi che me l'ho dovuto mettere nel letto perché si tremava come un bambino. Proprio stava per crepare, sono degli altri, proprio dei bastardi, capito? Guarda, infatti io ho chiesto, anche sotto se sentivano questi rumori, e io da qua sentivo questi boom, boom, boom, ho detto ma, insomma, a Natale, che dovrebbe essere la cosa della pace, questi imbecilli si mettono a sparare, posso capire ancora Capodanno. Che sono degli handicappati, capito? Sono handicappati, sono persone handicappate, perché ci vorrebbe un vero divieto, un vero controllo per questa gente, perché gli animali ne soffrono tantissimo, tantissimo. Qua nel mio complesso siamo pieni di cani, tutti i cagnolini, cazzano tutti disperati, disperati qua, disperati, stamattina li ho visti disperati, disperati, capito? Ci vorrebbe una bella legge, una legge fatta bene però, fatta bene, perché non ha nessun senso. Cosa cazzo serve sparare questi butti? Poi nella notte di Natale, capisco come hai detto tu a Capodanno, lo fai da mezzanotte e mezza, trovo una mezz'oretta di casino e poi basta. Alle 2, alle 3 di notte ancora butti, ancora butti. Qua non iniziato presto, alle 11:30 stavano bombardando sino a luna, non ho visto da che parte venivano, ma proprio furti, fuochi d'artificio, di tutto era. E per dire qua non è che c'è niente, non siamo al centro storico dove rimbombano ombre, eppure si sentivano ombre. È la piazza Domoro, qua erano, qua vicino a casa, piazza Domoro, poi c'è la farmacia, capito? Quella piazza lì era, dove fanno i concerti d'estate, chi si rimboglia ne ha tutti gli altri dei concerti. Il fatto è che abbiamo una polizia troppo tranquilla, diciamo, perché quando li prendi poi si mettono a piangere, ma solo sono un padre, ma ammazza, ma qua e là, allora a volte dico vabbè non lo fare più e quello poi dietro, quando se ne sono andati si mette anche a ridere, capito? Sono troppo buoni. Se invece ci fosse la polizia un pochettino più di quella inglese, ad esempio, che ti ferma e ti mette la multa a prescindere, con 400-500 euro di multa, poi vai da tuo padre e portale il foglietto a vedere cosa ti dice. Ma il divieto dei voti c'è ancora, è ancora valido qua? Sicuramente, non lo so, io non ho sentito niente, questo cacchio di Covid hanno dato priorità sicuramente a queste cose, ma è assurda una cosa del genere, perché se c'è il lockdown e tu non puoi uscire dopo le 10 da casa, cosa cazzo ci fa la piazza piena di gente a mezzanotte? Ma dov'è? Dove sono le forze dell'ordine? Dove sono le ordinanze? Ma di cosa stiamo parlando? La gente se ne sbatte le balle qua, perché sono degli handicappati, dei maleducati. Oh, claro, se mi stavi chiamando prima che stavo messaggiando con mio cugino su WhatsApp, ho dovuto abbassare il volume. Ti ha chiamato Gianfranco, ti deve dire cosa, vai Gianfranco. Ciao, avanti. Sì, stavo cercando un USB, non trovo neanche un USB adesso. Ma è un cassetto pieno. Casino. No, ti ho chiesto se ti interessavano degli strumenti di misura, tu che fai tanti lavoretti. Strumenti di misura di? Per radio, frequenzimetri, tester. No, tester ne ho 4 o 5, frequenzimetro ne ho. Poi cosa c'hai? Allora c'ho un frequenzimetro dovrei avere, che non uso perché non mi convince a me. Credo che vada da non so se arriva fino a 2 giga. Magari il mio frequenzimetro, a parte il frequenzimetro, c'ho il, come si chiama, il mobico, ma a casa, però manco lo uso quel baracchino lì. Oddio, frequenzimetro qua non è messo, questo apparecchio qua, cosa lo metto a fare? No, io dico frequenzimetro per uso, questo è frequenzimetro qui, non è un, è proprio una cosa a sé stante, come strumento di taratura ad esempio. Ma hai detto che non ti convince? No, personalmente no, rispetto all'altro che ciò che è il professionale, che guardi quello contro quello. Questo è soprattutto su io. L'avevo fatto vedere, ma ha detto no, già funziona. Sarò io che sono molto. Io sono molto pignolo, appena vedo qualche cosa che sgarra un pochettino dal seminato, prendo e tira l'ampo. Capito? O la regalo. Gianfra? Sì, chi è? Ma qual è quello che mi ha fatto vedere il caso che stavi vendendo il rack, quello lì? No, come si dice, non confondiamo la seta con la lana, tanto in questo caso col cotone. Quello lì è professionale, quello è a livelli alti, con tanto di certificazione. Questo qua è uno Marincina che l'ho usato pochissimo, quasi niente, però mi mette sempre il dubbio, capito? Ma questo è da abbinare a qualche baracchino per leggerti solo la frequenza, non è uno strumento di precisione? No, è uno strumento frequenzimetro, è uno strumento come tanti altri, c'ha i BNC, li colleghi a un oscillatore o a un punto come c'hanno le radio, no, quando le apri, c'hanno dei punti in cui si misura la frequenza, con gli appositi cavetti eccetera, e ti dà la corrispondenza, se ne so se un quarto oscilla a omega hertz, ti uscirà la lavoratorio. Serve in laboratorio per fare queste misure su tanti apparecchi, oscillatori di tutti i generi, insomma ce n'è. Dai televisori alle radio. Sì, no, lo dico appuntamente, la conosco sicuramente, non c'è problema. No, perché ci sono quelli senza fili che puntano, diciamo, tipo wifi, dai. Ma se non sono fatti bene, poi c'è la frequenza wifi che sono fuori le spalle alla frequenza reale. No, questi sono i casi, che è la cosa migliore. Non c'è bisogno di wifi se c'è la radio sul banco da controllare. Televisore o quello che è. Sì, no, io sto parlando a quelli, ci sono adesso questi nuovi cinesi, tipo rilevatori di microspie, cose così, ti fanno la pulizia, cioè il controllo di tutto l'ambiente, dicono se c'è una frequenza operativa, ti dicono a che frequenza sta lavorando, se c'è una microspia, se c'è una linea wifi collegata, eccetera. Sì, ho capito, quella c'è anch'io, ma quelli sono una cosa diversa, sono analizzato di spettro. Che servono quelli per fare quei lavori, non c'è un frequency network. Claudio, lo sai, l'hai visto Sirkan del mio collega? Ehi, ogni volta lo portiamo assieme, gioca come condannato, troppo toro, è un labbro quello, ecco io, Filippo è troppo bene, lo voglio. Sta fermo, ne guarda tutti rigorosi, ne guarda. Poi la fine si stufa, allora mette la zampa sopra. Che tocca. Sì, infatti, ma l'ha detto. Mi ha sorpreso perché mai e poi mai avrei immaginato che si desse a un cane. Sì, è stato come piacciono le piante, ad esempio, qualcosa di. Però il cane invece mi ha detto che era un suo sogno, le vuole molto bene anche. E quello però diventa grande, no? Poi da grande è un cane, penso quanto un cane lupo diventa, no? Il labbro è più grande, ma sì, c'ha le labbra, ma giù mai quanto il mio. È grande, diventa grande quanto il mio, così, anche più alto. Beh, la moglie Marcella è amante dei figli dei cani. Tu figurati che lei va al canile a dare a mangiare i cani, capito? È una volontaria, quindi era praticamente il suo sogno, avere un cane, e ce l'ha fatta con quella Ciro. Bello, è molto bello, quindi lì tutto, un bel labbro, bello, nero. È un bestione, c'ha le zampe già molto massicce, poi quello robusto già è. C'ha neanche 3 mesi, ma tu devi vedere tu con i cani grandi, è fenomenale, va a rompere le palle, a giocare, il mio poi con i cani piccolini non giocherellone, poi quando sono grandi chiaramente sicuramente già si conoscono, perché tutti quelli che sono nati qui, i cani da piccoli, Filippo li conosce tutti anche da grandi, capito? Molto bello. Avanti Robert, riprendi. No, oh, ma il pellegriccia. Via, il pellegriccia con la gazzarella burro. Avanti Robert. Al perizoma pure c'è. Pellegri si chiama, Pellegri. Pellegri. Ti ho visto Robert, Pellegri. Poi tu, mal di testa mai ne hai avuto Robert? Pellegrici. Mal di testa ne hai tu Robert? Mi accapita qualche volta, perché? E cosa prendi? L'aspirina, tachipirina, cosa? No, la tachipirina. Tachipirina, e poi prima di mangiare, poi riprendere per mangiare un po' di affaine, perché insomma con voto non si può fare. Avevamo un libro con Luca, quindi è proprio di Giabeduri, tachipirina, invece tachipirina, tachipirina. Poi c'era quello che invece di chiamare Gianfra, di chiamarlo Pitbull, lo chiamava Beautiful, attento. Siccome è già carino poi, quelli lì non mi piacciono perché sono sempre un cani molto aggressivi. Questo qua invece è usato soprattutto come cane di compagnia, per i ciechi ad esempio, fanno un addestramento micidiale. C'è anche la Guardia di Finanza come cane antidroga, se non sbaglio. Il labbro è il numero uno, Gianfra, è il numero uno, cane di Stato, come il pastore tedesco ormai è andato, no? Ce ne sono più pochissimi, oramai il labbro il Labrador, il cane di Stato, c'è l'antidroga, c'è quello di salvataggio, c'è quello a mare come il Terranova, fanno lo stesso lavoro, c'è appunto quello per i cecchi, ma sono tutti Labrador, è un cane da favola, veramente bravissimo, bravissimo, un cane che risponde ai comandi, ma già questo piccolino, e lascia sempre il guinzaglio, cosa che io al mio non potevo lasciare prima, non lascio neanche adesso, perché è un bel ritorno, capito, il bulldog inglese è un po' più ha un carattere un po' più strano, diverso, capito? Questo qui subito, qui non ti allontanare, si boccia vicino a Edo, sta fermo, non toccare niente, che prende tutta la terra ancora, capito? Però piano piano glielo sta insegnando, purtroppo sono piccoli e ci vuole un po' di pazienza, è come i bambini, no? Quando ti attorno il bambino, la stessa cosa, tanto è vero che prima le faceva la pipì dentro, adesso non sta facendo più, va alla porta che vuole uscire, è molto bello, molto molto bello. Io dovendo prendere un altro cane quando non ci sarà più Filippo, prenderò sicuramente un Labrador, per l'intelligenza che ha quel cane favoloso. Avanti Luca. Labrador, quello color panna, quello è bello, eh. Molto bello quel cane. Anche il nero, attenzione, però finalmente c'è di più quello color panna, molto bello. Buon Natale a tutti, dai! Buon Natale anche a lei, ancora in festa, sì. Via, in festa, vai, vamos! Ok, dai, continuate! Tanto sì. Antonio, la ghetta è sempre in festa, Roberto. Se sentiva musica sotto. Ehi, c'ha uno schermo mega gigante, con le luci psicheleriche, ma ti dico, un impianto wifi da discoteca, cazzo, una cosa da arresto, cazzo. Comunque Labrador anche secondo me il cane, non è proprio prendere il cane, però comprandomi un cane, il Labrador è il numero uno, è un cane equilibrato, intelligente, non si gira mai, proprio fatto apposta per i ciechi, per gli anziani, non ne ho mai sentito di Labrador che hanno creato problemi, al contrario di molti altri cani. Guarda, ti dico una cosa, il mio vicino, praticamente quello del palazzo di fronte, c'è la moglie che è non vedente e c'è il Labrador nero, io lo conosco da piccolo perché l'ha preso che non era molto grande, adesso è un bestione, è una femmina. Allora, quando ha la pettorina con la croce che ce l'ha la moglie, a Filippo manco caga, cioè come che non esista, lui deve guardare la strada e portare la sua compagna, perché è la sua compagna di viaggio, deve portarla e deve andare, deve rispondere ai comandi su. Ok. Quando ce l'ha il marito, lo porta a fare i bisogni, che non lo porta come cane normale, diventa matta per Filippo, e Filippo per lei, perché è femmina, si conoscono. Quando ecco la pettorina manco di gaga, proprio dice, oh, molla mio, sto lavorando, ho una fottinuta, già ci vediamo un altro momento. Tu immaginati l'intelligenza che c'ha questo cane. Sono belli, sono poi, non hanno grossi problemi di pelo, sono abbastanza robusti come cane, diciamo, sono belli, a me mi sono sempre piaciuti il Labrador, sia quello nero che quello chiaro, dai, sono cani eccezionali, soprattutto anche per usi, oltre che per i ciechi, salvataggio, antidroga, di tutto fanno quei cani, sono universali. Infatti adesso stanno prendendo il posto dei pastori tedeschi, perché prima tutti erano fissati con i pastori tedeschi, ma sono troppo delicati di salute, si creano un sacco di problemi, malattie, cose varie. Lo so, ma per dirti che un cane è proprio che fa il suo lavoro, non c'è niente da fare, anche l'ultimo anno, diciamo, controlli alla guardia di finanza, ci sono stati ad Olbia, due Labrador, maschio e una femmina, hanno disintegrato una macchina, nel senso che l'hanno fatta smontare, infatti c'era il doppio fondo pieno di marijuana, il doppio fondo degli sportivi.